Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e uno da Drago. Bentornati a Chiedo Asilo, ma in realtà bentornati a Kid Factor. Sì, perché oggi è martedì e il martedì è il giorno dedicato ai talent show. E il nostro talent show si chiama Kid Factor. Anzi, di tu, Drago. Il talent show di Radio 24 e di Chiedo Asilo si chiama Kid Factor. Vabbè, tutto qua. Cosa devo dire ancora? Non lo so, però capo, non ho capito, c'è un po' di confusione perché Chiedo Asilo, Kid Factor. Siamo sicuri che i nostri piccoli ascoltatori sappiano destreggiarsi tra tutti questi titoli, rubriche, cambi di programma? Ma certo, martedì. È facile, dai, ormai siamo alla terza puntata di Kid Factor. Tutti, proprio tutti, sanno che si tratta di una gara di canto tra bambini, che i bambini in gara sono due e che si può votare mandando la propria preferenza all'indirizzo mail chiedoasilo@radio24.it. At vuol dire chiocciolo. Sì, diciamo ai bambini che magari non lo sanno. Ricordiamo che i due bambini in questione sono quello della mia squadra, della squadra di Drago, che si chiama Seba. Sì, che è trascurabile. E il mio, quello della squadra di K, che si chiama Dini. E invece, vabbè, insomma. Cosa? Vabbè. È un po' stonato. Va bene, nelle scorse due puntate vi abbiamo proposto una canzone per Seba e una per Dini. Ricordiamo i titoli, così almeno la gente si ricorda. La canzone originale Go Fame per Seba, scritta da lui, e la cover di Satisfaction dei Rolling Stones per Dini. I Can Get, E voi da casa avete già cominciato a votare. Vedo qui che le mail arrivano a fiotti. Abbiamo infatti i primi risultati. Sono risultati sorprendenti. Sarei sorpreso tu, K, visto che in testa è il mio artista Seba. Io sono fiducioso, molto fiducioso. Andiamo a sentire velocemente quel che pensano i giudici dell'X Factor ufficiale, quello di Rai 2, dei nostri artisti. Cominciamo con la bambina Mara Maionchi, che si è rivolta così a Seba. Devo dire, posso preferirti, non ti conosco bene in certi pezzi che in altri, ma comunque sei sicuramente un fatto, e questo a livello artistico è molto importante. Ha detto che è un fatto, Seba è un fatto. Sì, ma non nel senso di drogato, un fatto musicale. Lo dici tu. Un fatto notevole musicale. Ma questo lo dici tu. Piuttosto senti cosa ha detto la bambina Tatangelo di Dini. Tu sei un ragazzo che sicuramente ha una grande sensibilità. Si dice sempre così. Solo che? Devi stare attento perché a volte l'artista supera il cantante. Cosa è? Il suo mondo, che fuoriesce così chiaro, il mondo, a volte non esce nel canto, perché comunque non puoi dire che non ci sono state delle imprecisioni mentre ha cantato. Ma cosa vuol dire? Quella è una stonatura voluta. È la stessa che a Morgan piace tantissimo. Vabbè, Morgan, perché hai detto già il nome del nostro giudice, hai rovinato tutta la sorpresa. Vabbè, era inutile. È vero, Morgan, a Morgan piace ma la stonatura. Ma non solo a Morgan, anche a Ruggeri, senti qua. Secondo me, trovo che sia il momento di proporre una moratoria sull'esasperazione della ricerca dell'intonazione. Vedi? Vabbè. Allora, se per colpa del tuo artista si arriva addirittura a invocare la moratoria mondiale in termini di intonazione, secondo me sbagli i pezzi. Un artista di grande valore, un simbolo di libertà di pensiero in un mondo governato dall'ipocrisia. Accogliamo con un grande applauso lui, Morgan. Vabbè, prima di cominciare con la gara, però io vorrei rivolgere una domanda un po' seria anche al nostro giudice Morgan. Secondo me non ti ascolta. Questo non si spegnerà mai più. Incombe il pericolo dell'iPad. Bravo, dai di corda perché non ti risponde. Ma Morgan, una domanda. Perché Morgan hai deciso di chiedere asilo? Cioè, esatto, questa è una domanda legittima. Perché? Beh, direi che la risposta perché io suono l'ukulele. E voi suonate l'ukulele anche voi. Suoniamo l'ukulele. E mi sono sentito molto amico con voi, proprio per questa cosa che ci unisce. L'ukulele, allora, l'asilo unisce. E chiedo asilo. Io chiedo asilo. Chiedo asilo qui. Sì, chiedo asilo qui. Asilo a Radio 24. Perché io chiedo asilo, non te lo dico. So soltanto che io chiedo asilo. Ma se poi tu mi chiedi perché chiedo asilo, ti rispondo in separata sede. Vabbè, dai. Vorrei dire che me lo dici di là dopo, ma adesso via alla gara. solo 6 anni. Scrive tutti i suoi pezzi mettendo in gioco una grinta punk campagnola irresistibile. Bambine e bambini, ecco a voi Seba con Guten Appetit. Guten Appetit. Se non è un bambino. Questa è elettronica pura. Questa è sperimentazione. Doppler pad. Sì, sì. È veramente noise. E qui la competizione si milanese fa noise. No, no, no, no, è Veneto, Albaretto. Dice in sci a un certo punto. Ma è, così, è il suo tedesco. Ma guarda che in milanese, se io ti dico quam pjöf, kan schoppen, ches pusentech guten, può sembrare tedesco e milanese. Va bene. Adesso però sentiamo... Ha 7 anni, parla un numero imprecisato di lingue ed è un grande appassionato di classici del rock. Questa sera si esibirà in Somebody to Love dei Queen. Bambine e bambini, ecco a voi Dini! Can anybody find me? Bellissima, questa la adoro già. L'ho fatta io anche questa. Questa l'ho fatta io, senti com'è stereo. La sindrome di Pippo Baudo. No, no, ma sembra che l'ho fatta io perché la riconosco. Io mi riconosco in questo genere. È meraviglioso quell'arpeggio tipo preludio di Bach. Senti adesso poi sul finale sembra che proprio ci sia la sofferenza della morte. Soffre sempre. E soffriva prima, soffre adesso. Poi questo lof. To love, to meet love. E con questo stacchetto inaugurò, no, va bene. Non era per nulla, allora, Morgan, era anzi l'inizio Somebody to Love dei Queen, oh, del, del giudizio di Morgan. Anzi, di diciamo che non è un giudizio, è sempre, sono sempre delle indicazioni di voto. Allora, Somebody dire. To Love, non era un po' leccata questa qui? Era bella, però devo dire, no, non leccata, cosa vuol dire? Ma nel senso, come ti over arrangiata, come si ma può che? Dire? Dai, ma un che? Po' barocca, un ma po' troppo. Che? Insomma, era il noise ma contro il classicismo dei Queen. Ma non è classicismo, Farsi. Perché mi sembra anche quello minimalismo in un certo senso. Cioè, se avesse avuto un arrangiamento già più ricco, più completo. Ha pure le coriste, hai sentito? Ma che le appetite? Coriste? Guten Appetit, sì. Invece. No, ma sono appetite. Bambini. Sono tutti bambini, vabbè, sì, bambini coriste. Bambini. Beh, è bello, cioè, se sempre quel The Tune, la tonatura stramba che è molto bella, che per farla un adulto che magari canta bene così spontaneamente è difficile riuscire a farla, eh? Bisogna avere delle macchine per sai farla. Che cosa c'è, Morgan? Però secondo me e anche Drago non stiamo usando i termini che in realtà bisognerebbe usare in quanto giudici di un talent show. Io mi aspettavo, cioè, che facesse questo dire, Morgan mi è arrivata, non ma mi io è non l'ho mai fatto, no, neanche infatti, là ma dovresti farlo, dovete insomma. Chiamare qualcun altro, no, vai bene, no, tu. Infatti io ho chiamato qualcun altro, ho chiamato un giudice che impazza nei pomeriggi televisivi dedicati a X Factor, quindi non è un giudice ufficiale di X Factor. Vabbè, però chi è? Il bambino Cristiano Malgioglio. Ma cosa senti cosa pensa di Dini e Seba. Io voglio cercare in questo programma i grandi talenti. I talenti, allora, devono avere personalità, devono sapere stare in scena, fascino. Questi due ragazzi, mi dispiace, per me sono zero più che zero, non valgono niente, non hanno talento. Se io fossi stato uno dei giurati non l'avrei presi. Non state a sentire quel che dice il bambino Malgioglio, ma votate per Dini o per Seba mandando una mail all'indirizzo chiedoasilo@radio24.it. Vota Dini. Domani e votate per Kid Factor a chiedoasilo@radio24.it.